Grazie alla vostra pazienza, alla fine però è stata premiata. Però non è un contrattempo, comunque per noi è veramente un piacere averlo qua, perché quando abbiamo programmato gli incontri di inizio anno con Associazione Scelte Possibili, l'argomento economia e finanza era uno degli argomenti che ci interessava di più, sono venuto fuori proprio questo grande interesse. E quindi speriamo che l'argomento sia di interesse non solo per noi, ma anche per altre persone. In effetti vedo che comunque la partecipazione è buona. Non rubo molto spazio a Ao, perché l'ora è già un po' tardina e sicuramente sarà in grado di darci degli spunti molto interessanti. Va bene. Grazie Ao. Grazie a voi. Io mi scuso prima di tutto per il ritardo, ma posso venire di là? Sì. Mi sembra un po'. Mi scuso per il ritardo dovuto a due motivi. Uno politico, perché sono stato coinvolto all'ultimo momento in una riunione aperitivo sul ballottaggio. Come potete immaginare, come c'è un po' di movimento, per fortuna. E l'altro perché effettivamente mi sono perso, sono finito a Caslino, poi sono tornato indietro. Vabbè, comunque, eccomi qua. Allora, mi fa piacere che siate qua, che mi abbiate aspettato fino ad adesso. Questa sera vi parlerò un po' di finanza etica, cos'è la finanza etica, come funziona e anche di azionariato critico, visto che sono reduce, diciamo, in senso positivo dall'assemblea degli azionisti di Eni ieri a Roma e dall'assemblea poi degli azionisti di Eni una settimana fa, quindi vi spiegherò anche come funziona l'azionariato critico, cosa vuol dire essere azionisti critici o responsabili. Io personalmente sono cresciuto all'interno di Banca Etica, diciamo che ho scritto anche la mia tesi di laurea ormai tanti anni fa sulle banche etiche in Europa e poi ho lavorato presso una banca etica tedesca di ispirazione steineriana, antroposofica, nel 2000, è stato il mio primo lavoro e poi sono tornato in Italia nel 2002, chiamato da Banca Etica a Milano, perché Banca Etica allora ha avviato la società di gestione del risparmio Etica SCR, che esiste ancora, che promuove fondi comuni di investimento etici. E poi sono rimasto in Etica SCR fino al 2008, dal 2009 ho iniziato un'attività impropria di consulenza, lavoro ancora a stretto contatto con Banca Etica, con il sistema di Banca Etica e poi ho sempre collaborato, diciamo, fin dall'inizio con il mensile Valori e con Andrea Di Stefano, che forse molti di voi conosceranno dalla trasmissione di Radio Popolare, e ultimamente, diciamo, da quando è nato, collaboro dal 2009 con il Fatto Quotidiano, soprattutto con la versione online del fattoquotidiano.it, dove forse qualcuno di voi avrà letto il mio nome. Di solito sono articoli di tipo finanziario, sulle banche, sulle società quotate. Quindi ecco, questo è un po' in breve la mia storia. Vivo a Como da quasi 9 anni, non sono comasco, come ho spiegato a Marco, sono originario di Verona, quindi anche questo è uno dei motivi per cui mi sono perso a Caldorago, ma non vuole essere una giustificazione. Banca Etica, io partirei da Banca Etica molto brevemente. Banca Etica, forse molti di voi già la conoscono, è una banca popolare che nasce dal basso, dall'iniziativa di una serie di cittadini attivi, impegnati e di associazioni ambientaliste, pacifiste, gli scout, il sindacato, enti locali, regioni, province. Quindi è una banca che non nasce nel chiuso dei salotti della finanza, come nel caso di molte altre banche. È una, se vogliamo, una classica banca cooperativa, come una volta le banche di credito cooperativo sono nate sul territorio, diciamo, dall'iniziativa dei cittadini, delle associazioni, a volte anche delle parrocchie, Banca Etica così è nata dal basso, dall'iniziativa di cittadini, soprattutto all'inizio negli anni 90, diciamo, il movimento che ha portato alla nascita di Banca Etica è nato nel 90, metà degli anni 90, quando c'era l'esigenza di dare credito a una serie di associazioni appartenenti al terzo settore, cosiddetto, diciamo in senso più ampio, non profit, che non trovava ascolto, che non aveva ascolto presso le banche classiche, le banche tradizionali. Quindi questo è stato il primo motivo per cui Banca Etica è nata, soprattutto per dare credito prima di tutto alle botteghe del commercio eco e solidale, e poi però anche ad associazioni come Arci, come le Acli, come Legambiente, che a quel tempo erano in grande sviluppo, ma non solo, c'era anche un grande sviluppo della cooperazione sociale, però questo sviluppo non veniva purtroppo sostenuto dalle banche tradizionali, e quindi a un certo punto queste associazioni, soprattutto quelle che all'inizio facevano riferimento al commercio eco e solidale, ma poi anche altre, hanno detto: va bene, se le banche non ci danno ascolto, la banca ce la facciamo noi. E con un'azione eroica, quasi, diciamo, si è raccolto il capitale sociale, un'azione che poi ne abbiamo riparlato spesso anche con i fondatori di Banca Etica. Forse oggi non sarebbe ripetibile, perché poi sono intervenuti cambiamenti legislativi, regolamenti, normative europee che hanno reso anche più difficile la creazione di una banca di questo tipo, ecco, con la raccolta di capitale dal basso, diffuso e con requisiti di capitale certamente elevati per queste associazioni, questi gruppi di cittadini, ma a portata di mano alla fine, perché comunque, nonostante lo sforzo notevole che ha portato alla nascita di Banca Etica, poi ce l'abbiamo fatta, quindi era molto difficile, ma non impossibile. Banca Etica poi si è sviluppata da banca del terzo settore o da banca del non profit, come era all'inizio, è diventata via via una, sempre di più una banca rivolta anche alle singole persone, quindi adesso si preferisce dire una banca del cittadino responsabile, del cittadino che dice oggi, soprattutto con la crisi finanziaria che stiamo ancora attraversando, dice: non con i miei soldi, non voglio che i miei soldi siano utilizzati per finanziare questo sistema finanziario Frankenstein, questo sistema finanziario mostro che si autoalimenta attraverso la speculazione in strumenti derivati, in strumenti in obbligazioni strutturate, in tutti questi, questa spazzatura finanziaria di cui le banche si sono riempite soprattutto negli ultimi 15 anni. Banca Etica oggi, più che essere la banca del terzo settore del non profit, certamente continua ad esserlo, e anche la banca del cittadino che è stanco di dare, di alimentare questa finanza insostenibile che ha portato questa crisi e che la sta ancora alimentando. Quindi sono nati anche dei servizi per i singoli, per i privati, conti correnti, finanziamenti, quindi è una banca che si è spostata, diciamo, dalle associazioni ai cittadini, mantenendo anche comunque sempre la componente originaria di riferimento. E Banca Etica, poi ecco, sulla banca lascio a voi, se avete voglia, se avete curiosità, le domande. Nel frattempo si è sviluppato all'interno della banca, a partire dal 2003, sia una società di gestione del risparmio che si chiama Etica SGR, che ha sede a Milano, per la quale ho, diciamo, lavorato fino al 2008, e attraverso la quale ho conosciuto anche Marco, che mi aveva contattato una volta per avere delle informazioni. È una società che promuove dei fondi di investimento che se da una parte la banca, diciamo come tutte le banche, raccoglie risparmi per concedere finanziamenti e lo fa, concede finanziamenti solo in determinati settori, quindi nel settore ambientale, nel settore della cooperazione sociale, della cooperazione internazionale, nel settore cultura e società civile, quindi solo questi settori possono qualificarsi per l'ottenimento di finanziamenti da parte di Banca Etica. La società invece finanziaria è una società che introduce i principi di Banca Etica, che sono la trasparenza della raccolta del denaro nei finanziamenti e anche la selezione della destinazione dei finanziamenti, la introduce nel mercato finanziario, quindi dice, permette di investire in titoli di Stato, in titoli azionari attraverso dei fondi, rispettando una serie di criteri che normalmente presso altre società finanziarie non sono rispettati. Quindi per esempio permette di investire in fondi nei quali non sono presenti società che producono armamenti, per esempio, oppure che fanno test sugli animali per i prodotti cosmetici, in società che sono cosiddette socialmente responsabili, che adottano dei criteri che li distinguono dalle altre società. Mentre normalmente diciamo, le banche, come sapete, raccolgono i risparmi e poi concedono finanziamenti seguendo semplicemente dei criteri di reddito, quindi dei criteri relativi al profitto che possono ottenere da questi finanziamenti, senza fare nessun tipo di valutazione sociale o ambientale, e le società finanziarie con i loro fondi investono in tutte le imprese quotate in borsa in base anche lì a valutazioni che sono meramente finanziarie, cioè in base a valutazioni, in semplici valutazioni di rischio rendimento, quanto mi rende un titolo a parità di rischio. Se un titolo a parità di rischio mi rende di più, allora investo in quel titolo. Questo è proprio, diciamo, detto molto molto velocemente, anche in modo sintetico, quello che fa Banca Etica, il sistema Banca Etica. Nel 2003 è sorta anche la Fondazione Culturale Responsabilità Etica, una fondazione di Banca Etica con la quale attualmente collaboro, la quale si è posta come obiettivo quello di diffondere la cultura della finanza etica, che è proprio legata ai temi della trasparenza, della selezione socioambientale degli investimenti e del coinvolgimento degli investitori e dei risparmiatori dal basso. Ha voluto che questi temi che hanno portato alla creazione di Banca Etica fossero diciamo fatti propri da una fondazione che tiene vivo l'interesse culturale nei confronti della finanza etica. Questa fondazione dal 2003 organizza una grande fiera convegno a Firenze che si chiama Terra Futura, non so se qualcuno di voi ha avuto modo di partecipare a questa fiera. Si tiene a Firenze la Fortezza da Basso, e quest'anno si terrà l'ultimo fine settimana di maggio, dovrebbe il 27 se non sbaglio, 25, 26, 27, ma potrei sbagliare, comunque sono quei giorni di maggio. È una fiera della sostenibilità, quindi dove tutte le pratiche di sostenibilità, dai gruppi di acquisto solidale fino ai pannelli solari, passando per l'agricoltura biologica, le energie rinnovabili, si mettono in mostra in questa fiera particolare. Assieme all'esposizione ci sono anche una serie di convegni organizzati dai partner di Terra Futura, che sono poi i soci fondatori di Banca Etica, quindi ACLI, ARCI, Legambiente e una serie di altre associazioni di tipo di cooperazione sociale oppure ambientaliste, che in questi convegni discutono di alternative a questo modello di sviluppo che diciamo stiamo vivendo, che ad alcuni è stato imposto. E una fiera che ha 90.000 visitatori ogni anno, vi invito a visitarla. Questa è una delle attività della Fondazione Culturale. tenere viva la finanza etica, la cultura della finanza etica. Una delle altre attività è, come vi anticipavo prima, quella dell'azionariato critico, e su questa devo dire, visto che la sto vivendo in prima persona in questi giorni, volevo dedicare un po' più di tempo nella mia presentazione. Dietro a tutte queste attività c'è l'idea dell'uso responsabile del denaro, cioè se abbiamo dei soldi, se abbiamo dei risparmi, l'idea di banca etica è quella di dire ai risparmiatori: fatti delle domande su dove i tuoi risparmi vanno a finire. Quando tu compri un prodotto finanziario, un certificato di deposito, anche quando sottoscrivi, apri un conto corrente, come verranno poi utilizzati i tuoi soldi? A chi andranno? Perché poi i soldi non è che restano parcheggiati in contanti nella banca, poi appena uno li deposita la banca li concede in prestito per ottenere ovviamente dei rendimenti, giustamente, perché la banca funziona così, ma molto spesso, abbiamo visto cosa è successo con la crisi finanziaria, questi soldi vengono depositati in banca, la banca garantisce, tra virgolette, un rendimento, e poi spesso vengono utilizzati dalla banca per fare attività di trading, per comprare titoli, per comprare e vendere obbligazioni, quindi, oppure vengono utilizzati per concedere crediti a industrie o a settori ai quali magari non vogliamo dare sostegno, come può essere, come dicevo prima, il settore degli armamenti. Quindi la domanda principale che sta dietro a tutto questo movimento, questa rete della finanza etica, è proprio questa: dove vanno a finire i miei soldi? Voglio sapere cosa succede con i miei soldi. E banca etica risponde in un modo molto semplice. Pubblico sul mio sito internet, fin dall'inizio, fin da quando è nata la banca, dal 99, tutta la lista di destinatari dei finanziamenti. Quindi in ogni momento, se si vuole sapere dove vanno a finire i soldi, si va sul sito di Banca Etica, si digita la regione e la provincia e si vede in quella regione, in quella provincia, chi ha ottenuto finanziamenti, per quale importo e per quale motivo, per quale progetto. E Banca Etica è attualmente l'unica banca in Italia che ha deciso di essere completamente trasparente. Con la fondazione abbiamo fatto un altro ragionamento, abbiamo detto: sì, è importante che ci sia trasparenza nel mondo bancario, perché abbiamo visto a cosa conduce la mancanza di trasparenza, la creazione di prodotti che poi sono stati definiti esotici o titoli spazzatura, subprime. Abbiamo visto dove può portare questa interpretazione della finanza che crea soldi sui soldi. Però vogliamo farlo anche su società quotate in borsa, che normalmente non sarebbero raggiunte dall'attività di banca etica, e lo vogliamo fare in modo critico. Quindi cosa abbiamo fatto? Seguendo un po' l'esempio di iniziative simili che sono partite già negli Stati Uniti negli anni 70, poi anche in Inghilterra, ma anche in Italia all'inizio degli anni 90, con iniziative soprattutto di Legambiente, abbiamo deciso di comprare un numero simbolico di azioni di due grosse società italiane, l'ENI e l'Enel. Perché proprio l'ENI e l'Enel? Perché a Banca Etica continuavano ad arrivare segnalazioni da parte di organizzazioni ambientaliste o per la tutela dei diritti umani, come per esempio Legambiente, Amnesty International, Greenpeace, che continuavano a dire: ma in realtà l'ENI, l'Enel non si stanno comportando bene, soprattutto nei paesi del sud del mondo, dove l'ENI da sempre buona parte delle proprie attività, l'Enel relativamente, cioè recentemente e dicevano cosa possiamo fare in più rispetto alla manifestazione, al boicottaggio, alle azioni dimostrative che può fare per esempio Greenpeace. E allora ci siamo messi a un tavolo, abbiamo un attimo ragionato, abbiamo detto va bene, cominciamo con il diventare azionisti di queste imprese, in modo che possiamo partecipare all'assemblea degli azionisti e abbiamo poi il diritto di incontrare i manager dell'impresa e di ottenere risposte alle nostre domande, perché spesso sia Greenpeace, sia Legambiente, sia Amnesty International lamentavano il fatto che a queste domande venivano spedite, che queste imprese venivano spedite una serie di quesiti, poi l'impresa però non reagiva, l'impresa li prendeva e li archiviava, diceva cioè, chi me lo fa fare di rispondere a un gruppo ambientalista per la tutela dei diritti umani. Come azionista invece si guadagna il diritto di avere risposta, di essere ascoltato, no? Perché quando si è azionista anche con una sola azione si è comproprietari dell'impresa. Se poi si è azionisti, come nel nostro caso come fondazione, si fa parte di quel gruppo all'interno degli azionisti, diciamo che riceve anche più attenzioni da parte dell'impresa che quello degli investitori istituzionali. Io sto arrivando non come singolo perché mi sono svegliato la mattina e mi è venuta voglia di venire a Roma all'assemblea, ma vengo come fondazione, quindi dietro di me ci sono i soci della fondazione, nel nostro caso c'è una banca che sostiene la fondazione e quindi l'impresa è anche più attenta nel dare le risposte. È un'iniziativa che abbiamo iniziato, come dicevo, nel 2008, e personalmente mi diverte molto, continuo a divertirmi, e è molto molto impegnativa. Noi abbiamo iniziato nel 2008 un po' in modo naif, diciamo, un po' da siamo andati all'assemblea di ENI facendo delle domande anche un po' generiche forse sulla condotta ambientale, magari portando degli slogan, prendendo il microfono dicendo sì, rappresento la fondazione e ENI si sta comportando male, che ne so, in Nigeria perché non ha contribuito a ripulire gli sversamenti di petrolio nel delta del Niger. Cosa vera, provata, però a quel punto l'impresa risponde no, attenzione, delta del Niger dove? E in realtà in tale area abbiamo contribuito al 20% perché facciamo parte di un consorzio e questo è il nostro contributo pro quota, nell'altra area effettivamente non abbiamo contribuito ma abbiamo ceduto l'attività da 2 anni, quindi bisogna essere preparatissimi per andare in assemblea a fare domande a queste grandissime imprese. Un altro motivo per cui l'abbiamo scelto Eni ed Enel, oltre al fatto che c'erano arrivate le segnalazioni da parte di soci di banca etica come Greenpeace, Legambiente, Amnesty International, oppure anche di soci singoli, l'altro motivo è che queste due imprese, nonostante siano diciamo rispondano ai mercati finanziari, sono tuttora controllate dallo Stato, quindi il maggiore azionista, l'azionista di controllo con il 30-31% sia di Eni sia di Enel è il Ministero del Tesoro o in proprio o attraverso la Cassa Depositi e Prestiti. Quindi abbiamo pensato che comunque, visto che sono in buona parte di proprietà pubblica, perché poi oltre allo Stato gli altri azionisti sono cioè hanno quote che sono quasi sempre inferiori al 2, addirittura all'1%, molto frazionata, molto frazionato l'azionariato di Eni e di Enel, quindi l'Eni ed Enel rispondono al governo italiano e staccano dividendi al governo italiano, quindi sono, se vogliamo, anche una fonte di reddito che poi il governo investe sue operazioni, oltre che per pagare gli interessi sul debito, ma non voglio entrare in questo tema, e quindi abbiamo scelto anche per questo motivo. Quindi via via con gli anni abbiamo affinato un po' le nostre ricerche, il tipo di domande che abbiamo fatto e ci siamo alleati anche con altri azionisti internazionali. Per esempio, ecco, per quanto riguarda l'Enel, faccio proprio un semplice esempio: nel 2007 l'Enel ha fatto un grosso salto in avanti o indietro, insomma poi dipende dalle interpretazioni, con l'acquisto della società dell'Enel spagnola, in sostanza della società di energia spagnola che si chiama Endesa, e ha acquistato Endesa a un prezzo che poi Enel probabilmente non poteva saperlo nel 2007, perché poi scoppiata la crisi, chi lo sapeva prima, diciamo, molti dicono di averlo saputo prima, in realtà siamo stati un po' tutti travolti da questa crisi finanziaria. Nel 2007, dopo che Enel ha acquisito Endesa, il titolo di Endesa è crollato, quindi Enel l'ha comprato ad un prezzo veramente molto elevato e si è notevolmente indebitata. Attualmente Enel è la società utilities, la società di servizi energetici più indebitata in Europa, a circa 45 miliardi di debito, proprio grazie all'acquisto di questa società spagnola. Acquistando Endesa, Enel si è aperta la porta molto più di prima ai mercati spagnolo e soprattutto dell'America Latina. È diventata da un momento all'altro anche lei una multinazionale. E quindi si è trovata a fronteggiare dei problemi che tutte le grosse multinazionali hanno quando si devono relazionare con paesi emergenti, paesi cosiddetti via di sviluppo, chiamiamoli paesi poveri del sud del mondo, e in effetti ha ereditato dei progetti soprattutto in America Latina per la costruzione di dighe, di enormi dighe per la produzione di energia idroelettrica. Per carità, l'energia idroelettrica, come sappiamo, è un'energia rinnovabile, un'energia pulita, però bisogna vedere anche come viene sfruttata. E in effetti Enel ha ereditato dei progetti che erano stati avviati da Endesa nella Patagonia cilena, in Guatemala e in Colombia, che prevedono la costruzione di enormi invasi artificiali, chiaramente per creare poi l'energia attraverso la forza cinetica, la forza cinetica dell'acqua che scende a terra. Lo fa però in territori in cui abitavano o abitano ancora delle popolazioni indigene che da secoli abitano lì, considerano queste ovviamente le loro terre, considerano le montagne, i cieli e i fiumi di queste terre loro proprietà inviolabile. A un certo punto arriva Enel e dice: no, io qua vi devo spostare, vi devo evacuare, perché devo costruire grandi dighe per assicurare la produzione di energia elettrica. Naturalmente lì bisogna mettere le cose su due piatti della bilancia: da una parte c'è l'Enel che crea energia elettrica anche per il paese e anche per le stesse comunità, dall'altra parte ci sono le comunità che si vedono sopraffatte, spodestate da una forza più grande di loro. La voce di queste comunità è arrivata poi alle organizzazioni ambientaliste per i diritti umani sul posto, e attraverso poi queste associazioni è arrivata anche alle organizzazioni italiane, come per esempio la CRBM, che è un'organizzazione collegata a Manitese, che ci sostiene in questa campagna di azionariato attivo. E noi abbiamo detto: bene, questa nostra iniziativa di azionariato critico ha proprio lo scopo di dare voce a queste popolazioni. Uno degli scopi è quello di dare voce a queste popolazioni che altrimenti non avrebbero la possibilità di parlare direttamente con i manager dell'Enel o dell'Enel. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cominciato a delegare questi indigeni, diciamo, queste persone delle comunità locali, e portarle a Roma, all'assemblea degli azionisti, a fare le domande direttamente all'amministratore delegato, al presidente delle società. E devo dire che è stato, e che continua ad essere, perché l'abbiamo fatto anche ieri, per dire, è stato divertente, interessante vedere come queste società reagiscono. La prima volta l'abbiamo fatto due anni fa, quando abbiamo delegato uno dei maggiori attivisti per i diritti delle popolazioni della Patagonia cilena, a difesa delle popolazioni contro la costruzione delle dighe, che è proprio un vescovo, il vescovo della Patagonia cilena, e abbiamo procurato delle azioni, ed è intervenuto in assemblea spiegando tutte le sue ragioni. E l'anno dopo siamo tornati, questo l'anno scorso, abbiamo portato, non il vescovo stavolta, ma un attivista della Patagonia, un rappresentante della comunità indigena Mapuche, che è venuto con i suoi vestiti tradizionali, e poi un altro attivista ambientalista sempre della Patagonia. In più abbiamo portato un attivista contro le centrali nucleari dalla Russia, perché sapete adesso Enel ha dovuto abbandonare a malincuore, perché anche quest'anno l'ha ripetuto, purtroppo il referendum ha bloccato questo nostro grande progetto di costruire le 2, 3, 4 centrali nucleari in Italia, però continua a sostenerle nella Repubblica Slovacca, dove Enel ha investito milioni di euro in 2 reattori dell'epoca di Chernobyl, in un consorzio al quale partecipavano non solo Enel, ma anche altre società del settore energetico europeo, che poi si sono defilate. Ora l'Enel è rimasta da sola, non paga l'Enel, adesso vuole investire in un reattore a Cernavoda in Romania, eredità dell'epoca Ceausescu, e a Kaliningrad, nell'esclava russa tra la Polonia e le Repubbliche Baltiche, in territorio russo, dove c'è il progetto di costruire una grande centrale nucleare del Baltico. Quindi abbiamo portato anche il principale attivista russo contro il nucleare in assemblea. Ecco, poi Enel ed Eni reagiscono in modo diverso. Enel è terrorizzata, quindi da quando abbiamo iniziato a inviare le deleghe per la partecipazione di questi azionisti dal sud del mondo, l'assemblea, all'entrata dell'assemblea, ha cominciato a comparire la Digos, le camionette della polizia, dei carabinieri. Ogni volta sembrava che ci fosse un assalto a Enel, in realtà poi non succede niente, la partecipazione avviene in modo assolutamente pacifico, anche la manifestazione al di fuori dell'assemblea, a volte ci sono gli amici di Greenpeace con degli striscioni, non succede nulla, solamente che l'Enel si sente assediata cerca di difendersi da non si sa quale pericoli. Quindi, l'anno scorso per esempio ci aveva detto che gli interventi potevano essere di 10 minuti, come in tutte le assemblee degli azionisti. All'ultimo momento il Presidente ha detto ho la facoltà di ridurre gli interventi a 5 minuti. A quel punto, considerando che, questo è solo un esempio, un aneddoto, diciamo, no? Considerando che l'attivista russo parlava in inglese e gli attivisti della Patagonia parlavano in spagnolo, l'Enel aveva previsto 2 traduttori in consecutiva, da 5 minuti, come sapete, diventano 2 minuti e mezzo, perché ora che io parlo e poi vengo tradotto, i 5 minuti si riducono ulteriormente. A quel punto, per protesta, siccome anch'io ho fatto un intervento delegato dalla Fondazione su questioni di governance, sulle quali tornerò dopo, avevo anch'io preparato un intervento di 10 minuti e ho detto decido, visto che ci è stato comunicato l'ultimo momento che l'intervento sarà dimezzato, il tempo sarà dimezzato, ho deciso di non tagliare l'intervento, leggerò un intervento da 10 minuti in 5 minuti, quindi ho letto a una velocità supersonica, e poi diciamo che l'Enel ha dovuto rispondere, abbiamo messo poi a verbale tutto l'intervento e poi scritto le domande. Quest'anno ci siamo presentati di nuovo all'assemblea dell'Enel con due attivisti. Questa volta è arrivato un vescovo dal Guatemala, un vescovo attivista che difende le popolazioni locali, le comunità indigene guatemalteche, molto bravo, un signor Ramazzini che difende il diritto di questa popolazione all'acqua, soprattutto sulla pone l'accento proprio alla proprietà pubblica dell'acqua, quindi al fatto che non può arrivare una compagnia straniera a sottrarmi l'acqua, che è un bene comune, un bene pubblico. E poi è arrivato un professore dell'Università Colombiana, entrambi erano molto preparati e punto per punto hanno confutato alcune delle convinzioni di Enel sul fatto che fossero state, per esempio, ascoltate tutte le diverse comunità locali per assicurare loro un'adeguata compensazione. In realtà il vescovo Ramazzini ha detto: attenzione, perché la comunità Maya non è stata consultata, sono una comunità ancestrale riconosciuta dal diritto del Guatemala e richiedono, e questo è stato anche il modo molto coraggioso con cui ha detto il vescovo, chiedono in modo molto normale il 20% dei profitti che l'Enel trarrà da questa diga in Guatemala. Chiaramente l'Enel, quando ha sentito il 20%, ha detto no, scusate, ma questa mi sembra una percentuale troppo alta. Il vescovo ha detto: ma guardate che anche alla popolazione Maya il 20% è una percentuale per loro normale, perché loro si considerano i proprietari della terra e dell'acqua, e quindi l'Enel dovrà confrontarsi anche con loro. Bisogna dire che su questo punto c'è stata una certa apertura dopo l'assemblea. Dopo due giorni l'Enel ha poi incontrato di nuovo il vescovo, ha detto: bene, se abbiamo escluso una delle comunità siamo disponibili ad incontrarla, vediamo poi come andrà a finire. Sicuramente questo dell'azionariato critico è un processo molto laborioso che porta via molto tempo, perché si tratta di problemi molto complessi. Adesso io li ho messi qui in modo cercando di semplificarli, però in realtà si tratta di questioni complesse sulle quali le imprese, bisogna dire, in parte si impegnano, in parte non sono in grado di dare risposte ma le danno lo stesso, in parte a volte dicono di occuparsi del problema, poi però o non lo fanno oppure lo fanno solo parzialmente. Quindi bisogna sempre stare allerta, bisogna sempre monitorare cosa succede veramente, e devo dire che questo è quello che ci sta dando più soddisfazione. Ieri eravamo all'assemblea di Eni, assemblea degli azionisti di Eni, che devo dire rispetto all'Enel è molto più rilassata, perché è abituata da sempre ad essere una multinazionale, quindi non ci sono forze dell'ordine fuori dalla porta dell'assemblea, non ci sono pattugliamenti. E il fatto è che poi l'Eni molto spesso ha preso con noi, con gli azionisti, noi azionisti critici, ma anche con gli altri azionisti, degli impegni che poi siamo andati a monitorare e abbiamo visto che non sono stati in tutto, in parte, rispettati. Quindi si tratta sempre di ritornare e di rilanciare la palla, perché noi mandiamo le domande, l'Enel e l'Eni ci mandano le risposte, noi leggiamo le risposte, rimandiamo altre domande, poi dopo l'assemblea l'Eni normalmente ci invita non a Roma ma a San Donato all'incontro con i manager. Loro sono in 15, noi siamo in 3 o 4, però portiamo le nostre domande, loro hanno quasi una persona per ogni domanda a quale devono rispondere. Già questo secondo me è un aspetto molto positivo, perché si tiene sveglia l'attenzione dell'impresa su temi che magari, cioè le imprese sono organismi molto grandi, molto complessi, e chiaramente si concentrano sulle priorità. Quindi se non vengono stimolati ad avere interesse anche per altri temi che magari verrebbero messi da parte, l'impresa va per la sua strada, si occupa di altri temi, ha tante altre cose da fare. Quindi lo scopo nostro è anche quello di continuare a stimolare, a pungolare questi colossi diciamo del sistema industriale italiano su temi che ci stanno a cuore, altrimenti questi colossi si rivolgerebbero la loro attenzione su altri temi che stanno a cuore ad altri importatori di interessi, e oppure la rivolgerebbero al 100% sul tema dei dividendi, sul tema del rendimento del titolo in borsa, che è quello che interessa la maggior parte degli azionisti. Ecco, ieri all'assemblea di Eni è stato interessante, abbiamo fatto due interventi, uno l'ha fatto un attivista nigeriano sulla questione, sul problema del gas flaring. Il gas flaring è la combustione a cielo aperto del gas che esce quando si estrae il petrolio, perché quando si estrae il petrolio dai giacimenti, in questi giacimenti c'è anche una alta percentuale di gas che normalmente o fino a pochi anni fa veniva semplicemente bruciato a cielo aperto, perché alle compagnie costava troppo diciamo recuperarlo, che di solito si tratta di gas sporco, di gas che contiene anche altre componenti come lo zolfo per esempio, o altre componenti che devono essere diciamo raffinate, depurate. Ora non sono un esperto, però non è un gas che si può prendere e mettere direttamente nei tubi e utilizzare. Però le compagnie dicevano: vabbè, abbiamo gas, abbiamo petrolio, a noi interessa il petrolio perché ce n'è di più, perché ci rende di più, il gas lo bruciamo a cielo aperto. Però bruciando il gas a cielo aperto assieme a queste componenti tossiche si ha un impatto ambientale disastroso sulle popolazioni che vivono in quelle zone. E quindi quello che aveva fatto l'Eni e anche tutte le altre compagnie petrolifere fino a poco tempo fa, siccome bruciare questo gas a cielo aperto diciamo prevedeva delle sanzioni, e pagava le sanzioni al governo nigeriano come facevano le altre compagnie, e poi continuava a bruciarlo. Ultimamente, negli ultimi anni, grazie anche alla pressione crescente di gruppi come Amnesty International, ma non solo, pressione che poi abbiamo fatto un po' nostra nel nostro piccolo, in questa nostra iniziativa di azionariato critico, le società hanno iniziato a lanciare dei progetti di azzeramento del gas flaring, utilizzandolo poi per creare per energia per le comunità locali. Il fatto è che Eni ha detto: si fissa degli obiettivi e dice: io entro il 2014 arriverò all'obiettivo gas flaring zero. Ogni anno però bisogna monitorarlo, perché per esempio adesso Eni ha detto che aveva chiuso con il gas flaring in due zone della Nigeria, e un gruppo di attivisti che sostiene la nostra attività di azionariato critico è andata in ottobre in Nigeria, in queste due zone, ha fatto le foto, ha fatto i video dimostrando che in realtà il gas flaring in quelle zone sta ancora avvenendo. Quindi Eni aveva già scritto sul suo sito che non era stato azzerato in quelle zone, invece continua. Cosa abbiamo fatto? L'attivista nigeriano è andato in assemblea, ha preso la parola, il microfono, ha detto: guardate che in quelle due zone il gas flaring sta ancora avvenendo. L'amministratore delegato poi ha risposto che non è vero. Adesso però ci incontreremo ancora con Eni, la discussione continua. Devo dire che nella pausa tra la prima e la seconda parte dell'assemblea ieri, al momento del pranzo, del buffet, che è sempre quello più interessante, non tanto per il menù diciamo di alta a 5 stelle che ci offre lo Stato, diciamo, ci offre Eni, ma per il fatto che poi si incontrano anche i manager di Eni in una situazione un po' più informale. E abbiamo incontrato uno dei manager, quello che segue poi che ci segue più da vicino, e ha detto e ci ha ammesso, ve lo devo dire a titolo personale, non ditelo a nessuno, qui lo dico a altra Como, la, è vero, avete ragione, il gas flaring continua, ci siamo visti i vostri video, siamo rimasti sorpresi, allibiti, perché da parte del Dipartimento di Esplorazione e Produzione c'era stato comunicato qualcosa di diverso, però dice questa cosa, ve la posso dire solo a titolo personale, perché non è la mia, non è l'opinione della società, è la mia opinione personale. Già questo però vi dà l'idea di come, se si presentano non domande generiche come facevamo all'inizio, no? Eni cattiva, Eni brutta, non etica, contro l'ambiente, impatti ambientali, ma si va proprio a focalizzarsi sul dettaglio, perché poi, come sapete, è nei dettagli che si riesce ad incidere su questi grossi organismi che sono le grandi società. Se si va nel dettaglio si riesce a portare a casa anche dei risultati importanti, si riesce ad essere riconosciuti come interlocutori validi, ai quali l'impresa può chiedere, volendo, anche dei consigli, perché poi, una volta superato il livello di scontro, no, che c'è all'inizio, in cui ci si annusa e si dice: ah, tu sei l'attivista e quindi vieni qua a rompermi le scatole, io sono l'impresa e devo cercare di circoscrivere la tua azione. Quando si è superato quel livello e si entra in un livello di dialogo, e devo dire che non ci siamo ancora arrivati del tutto, ci si sta lavorando, allora si inizia veramente a parlare proprio di cose importanti, di dire: ecco, questo è il problema che abbiamo rilevato, qual è la vostra risposta? Loro dicono: no, noi abbiamo un obiettivo zero gas flaring, siamo arrivati a meno 5. No, ditemi qual è la vostra risposta sull'area A e l'area B, non ci interessa la vostra risposta che mettete nel bilancio ambientale, nel bilancio di sostenibilità, diteci in quell'area, non mi interessa il resto, in quell'area cosa state facendo? E lì si lavora. Allora dici: vabbè, non ve la possiamo dare adesso la risposta, però ve la diamo fra un mese, venite a ritrovarci, prepara un video, una presentazione PowerPoint, mandano un manager sul posto. Senza questa attività, come dicevo prima, l'impresa andrebbe dritta sulla sua strada. Ecco, l'altra cosa che abbiamo sollevato, che poi abbiamo rilanciato sul Fatto Quotidiano, diciamo che era stata un'idea lanciata dal Fatto Quotidiano per primo, subito dopo che erano uscite le politiche di remunerazione dei manager, sia di Eni che di Enel, il Fatto Quotidiano aveva sollevato il problema con un articolo di Vittorio Malacuti, aveva detto: ma queste remunerazioni, a parte il fatto che siamo in un periodo di crisi e austerità, tutti stanno tagliando tutto, invece i manager di Eni e di Enel si riconoscono dei bonus e degli incentivi più alti dell'anno precedente, ma non è solo questo il problema, si riconoscono delle remunerazioni più alte degli anni precedenti, ma a fronte però di risultati che sono scarsi, che sono addirittura negativi per quanto riguarda l'Enel e positivi dell'1% per quanto riguarda l'Eni, mentre la remunerazione dell'amministratore delegato aumenta del 35, del 33%. No? Questa iniziativa lanciata dal Fatto è stata poi ripresa da un deputato dell'IDV che ha presentato un'interrogazione parlamentare a risposta scritta su questo tema, e poi noi l'abbiamo portata in assemblea come azionisti. Quindi sono stati tre passaggi: quello giornalistico, quello politico e quello, se volete, finanziario, no? E cosa abbiamo fatto? Anche lì non siamo andati a dire: cattivi, prendete troppi soldi e noi ne prendiamo troppo pochi, no? Cioè, alla fine la questione è questa: se un manager si assume dei rischi per far rendere un'impresa, e lo fa in modo efficace ed efficiente, è giusto che abbia anche una remunerazione adeguata. Non si può andare in assemblea e dire: il manager deve guadagnare come un impiegato, questo no. Però il problema che abbiamo riscontrato sia in Eni che in Eni è che molto spesso questi bonus, questi premi, queste buone uscite vengono attribuite in modo arbitrario, in modo assolutamente discrezionale. E quindi come azionisti vogliamo sapere quali sono gli indicatori che vi portano a fare questi calcoli. Allora cosa abbiamo fatto? Ci siamo presi il piano di remunerazione di Eni e di Enel, che è una novità in Italia grazie a una nuova legge che discende dalla normativa europea. Da gennaio, dalla stagione assembleare del 2012, le imprese quotate in borsa in Italia sono tenute a sottoporre al voto consultivo degli azionisti i piani di remunerazione, cosa che prima non succedeva. Quindi già questo è un grosso passo avanti, però un passo avanti che dobbiamo sfruttare. Quindi bisogna che gli azionisti si mettano a leggere i piani di remunerazione invece di lamentarsi per strada o al bar del fatto che questi grandi manager guadagnano troppo in relazione alla loro performance. Dovrebbero organizzarsi e andare in assemblea o delegare persone che vadano per loro in assemblea a fare le pulci a questi piani di remunerazione. Per esempio il piano dell'Eni, sul piano dell'Eni ho fatto un intervento delegato dalla Fondazione di Banca Etica con più di 10 domande su questo piano, e non erano domande del tipo perché all'amministratore delegato perché ha guadagnato 5,8 milioni di euro quest'anno, che sono troppi relativamente a quello che guadagna un impiegato, diciamo, medio, no? Le domande che abbiamo fatto sono diverse. Abbiamo preso il piano, abbiamo detto: bene, a pagina 10 c'è scritto che all'amministratore delegato vengono dati incentivi di medio termine in base a obiettivi economico-finanziari, punto. E abbiamo detto: quali sono questi obiettivi economici finanziari? Potete dirci quanti sono gli indicatori e quanto pesa ogni singolo indicatore nel computo finale? Poi diceva: abbiamo fatto riferimento a società che ci forniscono dei parametri di riferimento per le paghe, no? Nelle remunerazioni dei manager di solito si va a vedere quanto prendono i manager di altre società che sono della stessa dimensione, no? Per fare questo si pagano delle società di consulenza esterne. La cosa buffa, interessante, diciamo, è che c'è un grosso conflitto di interesse tra la società di consulenza esterna che dice al manager quanto deve essere pagato e ovviamente il manager che deve essere pagato, che paga la società di consulenza esterna per fargli la ricerca. È lo stesso procedimento che succede con la società di revisione. Per cui all'Enel abbiamo chiesto, siccome l'Enel ha detto: noi ci avvaliamo di queste due società, le ha nominate, e abbiamo chiesto: quanto le pagate? Quanto le avete pagate negli ultimi 3 anni? Avete verificato se ci sono dei conflitti di interesse tra le società che vi fanno queste analisi e il vostro consiglio di amministrazione o i vostri manager? Chi ce lo dice che non ci sono dei conflitti di interesse, no? Magari uno che fa parte di questa società è amico, socio, parente di uno che deve essere valutato. Quindi queste sono, è una delle domande che abbiamo fatto. Lo stesso abbiamo fatto per l'Eni, al quale abbiamo anche chiesto, e a questa domanda mi è arrivata poi dal responsabile del comitato remunerazioni, che è esso stesso ovviamente un amministratore dell'impresa, mi è arrivata una risposta surreale, in quanto avevamo chiesto, no? A un certo punto nel piano di remunerazione c'è scritto: l'anno scorso è stato attribuito un premio di 1 milione di euro, così una mancia di 1 milione di euro al presidente e un premio di 1 milione di euro all'amministratore delegato per i meriti acquisiti nel corso delle loro attività. Allora io dico, chiaramente in modo un po' provocatorio, ho chiesto se potevano fare, se potevano presentarci una griglia di questi meriti, quanto pesava un merito rispetto a un altro merito, al che, visto che non potevano risponderci, perché non si può attribuire 1 milione così, anche perché abbiamo chiesto perché è stato attribuito 1 milione e non 1.200.000 oppure 900.000, qual è il criterio che ha portato alla definizione di questo 1 milione, no? Al che l'amministratore, responsabile del comitato remunerazione ha detto: questo milione l'abbiamo attribuito perché il valore di un'impresa è dato dai manager e questo valore deve essere retribuito e deve essere, diciamo, deve essere valutato, esatto, deve essere valorizzato. E poi ha detto: in più abbiamo dato questo milione perché dobbiamo difendere i nostri manager dalla concorrenza esterna che ci li potrebbe sottrarre. Questa è stata la risposta. Implicitamente ammesso che questa parte della remunerazione è stata data in modo assolutamente discrezionale. C'era anche un'altra parte della remunerazione che veniva data in seguito alla scadenza della carica, no? In seguito alla scadenza della carica ti do tot milioni di euro. Però era scaduto l'amministratore delegato Paolo Scarroni, sul quale si potrebbe aprire poi un'altra grande parentesi, però non lo facciamo. Paolo Scarroni, la carica è cessata l'anno scorso, però puntualmente è stata rinnovata. Però a cessazione della carica gli è stata data la liquidazione. Ma come fai a dare una, tra virgolette, liquidazione a un manager che sai già che riconfermerai? Quindi anche questo ci sembrava una cosa assolutamente assurda. Una delle risposte che ci hanno anche dato è sì, perché poi è intervenuto, sia grazie al cielo, è intervenuto anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che era presente in sala con un rappresentante come ogni anno, è quello che fa l'intervento più breve, di solito dura 30 secondi, dice: in genere interviene il Ministero dell'Economia e delle Finanze, interviene col 30% delle azioni, se lui si assenta per un malore l'assemblea deve essere sospesa perché non c'è il numero legale, interviene e dice: siamo soddisfatti dei risultati dell'impresa e del dividendo che ci staccherà e facciamo gli auguri al management che continui in questo modo, e poi se ne va al posto. Quest'anno, forse anche grazie a questo interesse che si è acceso attorno alle remunerazioni e ai bonus dei manager, anche contemporaneamente, diciamo, a quello che sta succedendo, un periodo in cui viene chiesto a tutti di fare sacrifici, di pagare più tasse, eccetera, eccetera, e anche in seguito all'interrogazione parlamentare che è stata fatta, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sia l'Assemblea di Eni sia l'Assemblea di Enel, è intervenuto non per 30 secondi ma per un minuto e 20 secondi dicendo che raccomandava all'impresa maggiore rigore e attenzione nella determinazione dei bonus e dei compensi. Ecco, adesso poi io al buffet ci ho parlato con il rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze e ho detto: ma cosa vuol dire? Cioè, adesso che avete fatto la raccomandazione, poi cosa succede? Noi siamo azionisti di controllo, gli abbiamo fatto la raccomandazione e poi, insomma, chi ha orecchie per intendere, intende, insomma, poi qualcosa dovranno fare, no? Però è sempre una raccomandazione, non è un voto contrario, hanno votato a favore, però diciamo, dalla nostra ottica, no, questi cambiamenti avvengono sempre non con grandi scosse, ma sempre con movimenti diciamo molto molto lenti. Vabbè, è stata anche una piccola soddisfazione il fatto che fosse il Ministero dell'Economia e Finanze stesso a dire: ma state attenti su queste remunerazioni. L'impresa, sia Eni sia Eni, l'ha risposto in modo prevedibile, ha detto: sì, però se confrontiamo le nostre remunerazioni con quelle che hanno i manager di altre imprese negli Stati Uniti o in altri paesi europei, siamo sotto del 30%. Ho capito, però Eni ed Enel hanno come azionista di controllo lo Stato, quindi la cosa è abbastanza diversa, non rispondono al 100% dei mercati, ma rispondono allo Stato. Poi altra cosa è il ragionamento che facciamo noi, poi anche un po' idealista, che diciamo: se c'è una spirale inflazionistica di aumento di queste remunerazioni che è partita dagli anni 80, dalla metà degli anni 80, e è arrivata ai suoi massimi prima della crisi finanziaria nel 2007, quando sono esplosi le remunerazioni dei manager, soprattutto delle società finanziarie, perché devo continuare ad alimentarla? Cioè, se gli altri prendono di più, perché devo continuare ad adeguarmi a questi parametri che continuano a salire? Va a finire che un tetto non si trova mai, perché diciamo che c'è una strada che tende a infinito. Però chiaramente da parte del management si risponde in questi termini. Ecco, questo è un po' quello che stiamo facendo. Mi sono concentrato di più sull'aspetto dell'azionariato critico perché mi sembra che sia ancora relativamente poco conosciuto e mi sembra che sia anche un modo per dire quello che si può fare se ci si dedica, se si dedica un po' di tempo a non prendere tutto quello che ci viene dato da queste imprese o dalle banche, in generale diciamo dalle istituzioni, per oro colato, e ci si mette a fare dei ragionamenti sul perché si prendono certe decisioni e in quale modo queste decisioni vengono prese e quali interessi vengono difesi e se c'è una breccia, se c'è uno spiraglio nel quale ci si può inserire. Ecco, in Italia in queste iniziative di azionariato critico attivo siamo in una fase ancora pionieristica, dove ci sono dei poveri disperati come noi che vanno in assemblea a sollevare le questioni, poi però la maggior parte dei presenti, se facciamo eccezione per gli azionisti disturbatori o pensionati che anche animati dalle migliori intenzioni poi vanno in assemblea semplicemente per fare i loro proclami o per diciamo come si può dire fare complimenti, lodi sperticate ai manager per poi essere sentire il loro nome nella risposta, se facciamo eccezione, facciamo questa eccezione, poi sono presenti in sala una serie di rappresentanti di fondi pensione, fondi di investimento che semplicemente votano e non dicono nulla. Quindi in Italia purtroppo questi grossi investitori che non hanno come noi 80 azioni di Eni, ma hanno magari lo 0,5% o addirittura il 2%, per esempio la banca BNP Paribas, quella che ha comprato la BNL, ha il 2,4% di Eni. Se volesse potrebbe convocare domani, cioè potrebbe chiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria o far inserire un punto in più da votare all'ordine del giorno. Però ecco, questi investitori istituzionali in Italia non si sono ancora svegliati. Non parlo solo delle grosse banche, parlo anche di fondi pensione a gestione paritetica, sindacale, aziendale, come per esempio i fondi negoziali, che possono essere il fondo pensione dei metalmeccanici Cometa, il fondo pensione dei chimici Fonkin. Visto che ci sono in mezzo anche almeno per una metà del controllo, ci sono in mezzo i sindacati, perché noi abbiamo parlato spesso anche con i sindacati su questo, però si fa fatica a fare un ragionamento di questo tipo. Ci vorrebbe, diciamo, una maggiore attenzione da parte di questi grossi investitori. Negli Stati Uniti già succede anche in Inghilterra e in Francia, che ci siano dei grossi fondi pensione, per esempio negli Stati Uniti, che per carità hanno una tradizione finanziaria molto diversa dalla nostra, molto più concentrata sulle borse rispetto al sistema bancario. Ci sono grossi fondi pensioni come per esempio Calpers, il fondo pensione dei dipendenti pubblici californiani, che gestisce 250 miliardi di euro, e se vai in assemblea a dire vota contrario, ecco, l'impresa magari la prossima volta ci pensa due volte. Ecco. Quindi secondo me, ne ho parlato anche perché in questo ambito c'è una prateria sconfinata ancora da sfruttare, e se veramente vogliamo sfruttare questo grande momento di cambiamento che c'è non solo nel nostro paese ma anche a livello europeo, non solo in termini politici ma anche dal punto di vista economico-finanziario, perché ne vedremo ancora delle belle negli anni a venire, e dal punto di vista energetico, nella delocalizzazione della produzione di energia, nello sviluppo delle energie rinnovabili, eccetera, eccetera, l'azione di azionariato critico in questo contesto possiamo dire che è uno dei tanti sentieri che possono essere percorsi nei prossimi anni, che saranno anni di grande cambiamento, sono uno dei percorsi, dei sentieri che potremo percorrere per far sì che questo cambiamento non sia un cambiamento subito, ma sia un cambiamento che possiamo anche noi influenzare con le nostre scelte. Questo è. Grazie. Grazie a tutti per voi. Grazie Mauro per l'intervento, tantissimi spunti che ha fornito. Inauguro le domande con una cosa che volevo chiedere, che riguardava i criteri di scelta di investimenti da fare per un'azienda etica, per una banca etica, per una società di investimenti etica. Era chiaro il discorso di entrare nelle aziende simbolicamente per fare questa lezione di azionariato critico dall'interno, mi può essere chiaro il discorso di come finanziare determinate aziende, perché ritengo positivamente valida, insomma, meritevole dell'appoggio. Mi chiedevo un po' di più invece dal punto di vista degli stati, quale può essere il criterio per dire investo in un titolo di stato italiano piuttosto che tedesco o greco, sì. Al di là dell'aspetto economico? No, certo. Allora, lì devo fare una breve premessa relativamente proprio agli strumenti che ci permettono di fare questi investimenti, no? Adesso, tornando indietro a quello che dicevo prima, noi come fondazione abbiamo acquistato semplicemente dei titoli, ci siamo aperti un deposito titoli, siamo andati in banca, deposito titoli è là, paghiamo la tassa sul deposito titoli, quando vengono staccati i dividendi ci vengono pagati, eccetera. Ecco, naturalmente, come dicevo prima, se si vuole investire invece in un numero più elevato di azioni o di obbligazioni di titoli di Stato, ci sono degli strumenti che permettono di farlo, che si chiamano fondi comuni di investimento, no? Che sono, anche se il nome può sembrare altisonante, magari diciamo io penso che e questo è normale, per carità, no? Cioè non è che tutti devono sapere che cos'è un fondo comune di investimento, si vive anche senza, cioè si vive bene anche senza, però fondi comuni di investimento, se vogliamo spiegarli in modo molto semplice, sono come dei carrelli della spesa nei quali vengono inseriti non solo le 80 azioni di Eni, ma il gestore finanziario mette dentro un po' di azioni di Eni, un po' di azioni di Enel, Finmeccanica, che ne so, si compra anche Microsoft, Vodafone, fa una spesa negli scaffali delle borse internazionali, li mette tutti insieme e poi magari ci mette anche dei titoli di Stato, quindi si compra dei titoli di debito pubblico per diversificare, no? Perché i titoli delle imprese sono più rischiosi, perché è più probabile, diciamo detto in modo semplice, che un'impresa fallisca rispetto al fatto che uno Stato fallisca. In generale, per cui si cerca, no, di mettere insieme questi investimenti, o si mette solo titoli di Stato in modo da avere un rischio più basso e ovviamente commisurato anche un'aspettativa di rendimento più bassa, oppure si mettono solo titoli di imprese e si avrà un rischio più alto con un'aspettativa di rendimento più alta, oppure si mescolano e si fanno dei fondi misti. E si mettono un po' di titoli di imprese, un po' di titoli di Stato, in modo che si riesca ad abbassare il rischio delle azioni, avendo però anche un po' di rischio. Ecco. In questi carrelli si può mettere di tutto, naturalmente, no? Quindi si può scegliere di avere solo azioni e sarà un fondo azionario puro, si chiama, no? Un fondo di investimento azionario puro. Si può scegliere di avere solo azioni europee, si può scegliere di avere solo azioni americane, oppure azioni europee nel settore farmaceutico, oppure azioni americane nel settore bancario. Insomma, se voi andate in una banca, ha un'offerta di fondi incredibile, cioè, non lo so, sono più di 200, uno può dire, al fine uno è disorientato e spesso si fida di quello che gli propone il promotore della banca, no? oppure dicevo, si possono mettere nel fondo solo titoli di Stato e sarà un fondo monetario oppure obbligazionario puro, oppure si mettono insieme sia titoli di Stato che azioni, si avrà un fondo misto, bilanciato, insomma ce ne sono di tutti i tipi, di tutti i colori. Naturalmente se io voglio fare un fondo anche etico, fondo azionario, bilanciato, obbligazionario etico, non posso mettere nel carrello tutto quello che trovo negli scaffali, come mi pare e piace. Devo andare a fare la spesa con una lista della spesa e devo aver ben chiaro quali sono le imprese, il paniere di titoli di imprese e il paniere, dicevi tu, di titoli di Stato che posso inserire dentro. Allora, in genere, il gestore di un fondo etico ha in mano questa lista della spesa nella quale ci sono 300-500 nomi di imprese, mentre il gestore di un titolo normale ne ha potenzialmente un numero, non è infinito perché poi il numero delle imprese quotate in borsa è finito, però migliaia, diciamo, di imprese, no? Chiaramente quello che investe, che crea un fondo, un carrello etico, un fondo di investimento etico, mette dentro solo le imprese che ne so, poi i criteri variano da fondo a fondo a seconda delle sensibilità anche dei degli investitori. Per esempio può dire no, nel mio carrello non ci vanno assolutamente le imprese che producono armi, le imprese che producono, come si chiamano, usano organismi geneticamente manipolati, le imprese che addirittura può dire non voglio imprese petrolifere perché secondo me hanno un business legato al passato, non lo voglio sostenere. E dall'altra parte però inserisco delle imprese non solo in base a criteri negativi ma anche in base a criteri positivi che sono più sostenibili, quindi che ne so, l'impresa automobilistica che utilizza meno materie prime nella produzione dell'automobile, l'impresa automobilistica che alla fine del ciclo di vita dell'automobile è più brava a riciclare tutti i pezzi dell'automobile usata e a rimetterli nella catena di produzione, l'impresa del settore alimentare che usa il minor quantitativo di imballaggi, per dire, mettendo insieme, oppure l'impresa di qualsiasi settore che ha almeno il 33% di donne nel suo consiglio di amministrazione. Ci sono in genere sono 80-100 tipi diversi di criteri positivi ai quali si dà un punteggio. Poi si fa delle medie e si arriva a creare questa lista della spesa, no? Che va con la quale si scelgono le imprese che vengono inserite nei carrelli. Lo stesso vale anche per i titoli di Stato. E lì i criteri sono diversi rispetto a quelli delle imprese, perché gli stati sono strutturalmente diversi. La valutazione che si fa è prima di tutto di tipo negativo, no? Si dice in molti casi si dice escludiamo i titoli degli stati che applicano la pena di morte, per esempio, oppure i titoli di Stato che hanno una percentuale più elevata di una certa soglia di investimenti in spese militari, oppure escludiamo gli stati che hanno una percentuale troppo bassa del loro prodotto interno lordo che viene destinata agli aiuti ai paesi poveri. Perché sapete, le Nazioni Unite si erano posti l'obiettivo negli anni 70 ancora, della destinazione dello 0,7% del prodotto interno lordo ai paesi poveri per ridurre il divario tra paesi ricchi e paesi poveri. Poi in realtà la media si è attestata attorno allo 0,3-0,4%, e lo 0,7 è stato raggiunto da pochissimi paesi, tre paesi. Assieme a questi criteri negativi, anche per gli stati ci sono una serie di criteri positivi, per esempio la riduzione di emissioni di anidride carbonica, oppure la qualità delle acque misurata in base a criteri chimici, o ancora la libertà di stampa, quindi il grado di libertà di stampa in un paese, oppure il grado di trasparenza e di efficienza delle istituzioni pubbliche. Mettendo insieme tutti questi criteri, che sono normalmente relativi ai diritti umani, all'ambiente e alla struttura di governo del paese, alla governance del paese, a come funziona il governo del paese, si scelgono degli stati e si crea anche una lista degli stati, per cui si dice: inserisco nel mio carrello i titoli del debito pubblico, i titoli di Stato, solo degli stati che passano questo esame, e nel mio fondo etico avrò solo questi stati. Allora, in genere, nell'esperienza che abbiamo avuto con i fondi etici di banca etica, arrivano primi gli stati scandinavi o gli stati del nord Europa, quindi la Svezia, la Danimarca, la Norvegia. Il problema è che questi stati hanno poco debito disponibile, perché sono, non solo perché si sono indebitati di meno, a parte alcuni, come la Danimarca, ma perché sono piccoli. Quindi alla fine il gestore finanziario ha bisogno anche di una certa disponibilità dei titoli, ha bisogno di comprarli e venderli in modo abbastanza semplice. Non quando trova uno che glieli compra, ma deve trovare sempre, in ogni secondo, uno che glieli compra. Per cui nei fondi etici si privilegiano sicuramente gli stati che passano questo esame, ma che hanno anche un volume di debito elevato. Per esempio, un caso tipico è la Germania. La Germania passa tutti questi esami ed ha un debito molto elevato, che è anche un paese molto grande, a parte che poi la percentuale di debito sul PIL della Germania è cresciuta fino a oltre il 90% negli ultimi anni, però in generale la Germania ha un debito veramente grande, perché è anche un paese di 80 milioni di persone, insomma. Per cui tipicamente questi fondi etici che investono nei titoli di Stato hanno avuto molti titoli tedeschi all'interno, titoli olandesi, titoli francesi, di nazioni che superano l'esame e che hanno anche un debito abbastanza liquido. L'Italia è stata per lungo tempo esclusa dai fondi di banca etica per una serie di motivi. Principali erano la percentuale di prodotto interno lordo che viene destinata ai paesi poveri, per cui in successione i governi sia di centrodestra sia di centrosinistra l'hanno tagliata, adesso è cresciuta di nuovo un po', e siamo arrivati in certi periodi ad essere gli ultimi nel mondo, o i penultimi o i terzultimi, insomma, assieme a noi Giappone e Grecia, adesso vabbè, Grecia per ovvi motivi, però prima della crisi c'era, forse l'ultima era Giappone, a volte eravamo ultimi noi, così. A questi motivi si è raggiunta il punteggio basso nella libertà di stampa, perché Freedom House, che è questa ONG americana che valuta la libertà dei paesi, non è una ONG indipendente, valuta anche la libertà di stampa, e quando era Berlusconi primo ministro aveva stabilito che, siccome il primo ministro deteneva anche tre reti televisive, una serie di giornali, eccetera, eccetera, allora l'Italia veniva considerato un paese parzialmente libero dal punto di vista della libertà di stampa. Ora, può essere opinabile questa cosa sul fatto che l'Italia fosse un paese parzialmente libero. Io, diciamo che, non lo so, non mi sento di dire che ho vissuto in un paese parzialmente libero. Sicuramente abbiamo vissuto in un paese in cui la libertà di stampa aveva un punteggio inferiore rispetto ad altre democrazie, come può essere la Germania oppure la Francia. Per cui queste erano le due valutazioni che spingevano giù i rating dell'Italia e spingevano l'Italia fuori dai fondi etici di banca etica. Non fuori di tanto, alla fine era nella media, ma queste erano proprio le due gocce che facevano traboccare il vaso. Adesso il punteggio un po' migliorato, il comitato etico di etica SGR ha deciso in seguito a questi miglioramenti di inserire l'Italia di nuovo nel paniere degli stati per i quali si possono comprare i titoli di Stato. È una scelta che, devo dire, al di là poi dei dati oggettivi, non mi sento di condividere, perché la cosa che era interessante di questi fondi etici che investivano solo in titoli di Stato era che erano gli unici, o tra i pochissimi in Italia, che non investivano in titoli di Stato italiano, e quindi davano una certa diversificazione, perché tutti i fondi monetari o obbligazionari italiani investono in titoli del debito pubblico italiano. Ora, alla luce di quello che è successo, io credo che avere dei fondi che non investono in titoli di Stato italiano magari può essere anche un vantaggio dal punto di vista finanziario, però questa è una valutazione mia personale e qui la lascio. Sono domande? Io no, è una curiosità mia. Vorrei che tu mi spiegassi il debito pubblico italiano, se è dovuto da un debito reale o da una speculazione finanziaria, o quanto è speculazione e quanto è debito. Cioè, quanto hanno inciso le banche su creare questo debito? Cioè, vorrei capire il debito da cosa realmente dipende. Ma guarda, ti rispondo per quanto posso rispondere, no? Perché il debito è stato prodotto, e non è un segreto, è stato creato dai governi italiani in un certo periodo storico in cui la spesa pubblica è andata fuori controllo, e poi sul fatto che questo debito abbia raggiunto queste dimensioni così elevate, ovviamente si è aggiunto anche la questione dei tassi di interesse che si sono dovuti pagare, si continuano a pagare sul debito, e anche la questione della crescita del paese, che negli ultimi 10 anni è stato in pratica pari a zero, perché l'unico modo per ridurre il debito è o aumentare le entrate, ed è quello che sta facendo il governo Monti, quindi attraverso un aumento della tassazione, oppure aumentare la crescita, perché con la crescita nel bilancio dello Stato si hanno poi di conseguenza più entrate, e quindi si riesce a ridurre il volume di debito sul prodotto interno lordo. Quindi il problema che stiamo vivendo adesso è che questo debito è reale, sicuramente. Al debito reale si sono aggiunti chiaramente i tassi di interesse che abbiamo dovuto pagare e continuiamo a pagare, e tassi di interesse che a un certo punto sono stati spinti a causa della speculazione internazionale, a partire dall'estate scorsa fino al novembre, ma poi gli spread si sono allargati di nuovo, continuano a stringersi e allargarsi, siamo arrivati ad avere in botta ad un anno, adesso non vorrei dire una cavolata, ma a un certo punto abbiamo avuto un'emissione di botta un anno che eravamo arrivati al 6%, quindi questi sono poi soldi che lo Stato deve pagare con le entrate, quindi sicuramente la speculazione c'entra, però nella componente del tasso di interesse su quello che viene chiamato servizio del debito, perché il debito io lo devo servire, chi mi ha prestato i soldi li devo pagare, quindi questa è la componente speculativa che sicuramente è diventata rilevante sulla parte di debito che è stata emessa a partire dall'estate scorsa in determinati periodi. E ancora adesso il debito che emettiamo lo emettiamo pagando dei tassi di interesse che sono molto più alti di quelli che pagavamo prima dell'esplosione che abbiamo avuto nel luglio-agosto dell'anno scorso. Quindi è questa la componente speculativa. Poi il debito in sé è stato creato, lì sono valutazioni politiche da fare, è stato creato per una cattiva gestione politica, è stato creato per finanziare opere pubbliche, per finanziare stipendi statali per posti pubblici che magari non erano necessari, o per servizi che invece i servizi erano degli sprechi, quindi da quel punto di vista c'è stato un errore politico. Poi sul servizio del debito sicuramente stiamo pagando una speculazione che continua e alla quale, diciamo, prima l'arrivo di Monti, ma non tanto l'arrivo di Monti, soprattutto la tregua, se vogliamo la morfina che ha inserito Draghi nei mercati facendo questo mega prestito di 1.000 miliardi di euro all'1% alle banche europee, chiedendo alle banche di comprare con questi 1.000 miliardi di euro concessi dalla Banca Centrale Europea titoli di Stato dei paesi periferici come Spagna e Italia a percentuali del 4, del 5, del 6% con una plusvalenza del 3, del 4, del 5%. Quindi questa operazione che si chiama LTRO, Long Term Refinancing Operation, è stata l'idea di Draghi, non è risolutiva, è semplicemente una toppa che viene messa a una situazione che è ancora grave e che ha permesso un attimo di respirare. A un certo punto gli spread, quindi la differenza tra i rendimenti, ormai lo sappiamo tutti cos'è lo spread, la differenza tra i rendimenti dei titoli decennali italiani con i titoli decennali tedeschi, è scesa di nuovo per un certo momento a livelli accettabili, intorno al 2,50-2,80%. Adesso è salita di nuovo e sicuramente se in Italia non si prendono delle misure drastiche di riduzione del debito, per la riduzione del debito e per la crescita, quindi se non si risveglia il paese, non si riesce ad uscire da questa trappola del debito. Nel frattempo però è necessario che venga ridotto anche lo spazio della finanza, perché la finanza in questi ultimi anni, a partire dalla metà degli anni 80, ha guadagnato uno spazio rispetto all'economia reale che non oserei definire mostruoso, perché là fuori ci sono 12,5 mondi di carta, di finanza, di derivati, di contratti speculativi a fronte di un solo mondo di economia reale. Finché non si sgonfia questa bolla di carta, di più di quanto si è sgonfiata adesso, finché non si decide anche in modo drastico di eliminare certi tipi di contratti finanziari che sono andati fuori controllo, finché non si decide di tornare indietro, di fare alcuni passi indietro e dire riduciamo per legge lo spazio della finanza, questi problemi probabilmente ritorneranno, ciclicamente ritorneranno. Ciò non toglie che il nostro paese deve fare degli sforzi maggiori per tagliare il debito, e potrebbe essere fatto in vari modi. Adesso le proposte che vengono fatte sono varie e tutti su queste proposte abbiamo le idee più disparate. Si è parlato di una tassa patrimoniale, altri hanno detto no, la tassa patrimoniale sarebbe recessiva perché deprimerebbe ancora di più la crescita. Si è parlato di dismissione oculata di alcuni di una parte del patrimonio pubblico. Si può fare, si è già tentato di farlo in passato, si potrebbe farlo meglio, e dall'altra parte si è tentato, si parla anche di diminuzione di tasse sul lavoro, incentivazioni vere alla crescita, riduzione di tutti quegli incentivi inutili che sono stati dati e continuano ad essere dati alle imprese che non servono a nulla o che vengono dati a determinati enti. Quindi da fare ce n'è molto, però come sempre per riuscire a questa trappola servono tre condizioni: facilitare, ridurre sicuramente le spese, aumentando anche le entrate, facendo possibilmente pagare le tasse a chi non le ha pagate finora, e dall'altra parte bisogna anche sviluppare meccanismi che rendano più facile la crescita. Adesso io penso, mi viene torno all'esempio dell'euro, no? Che quest'anno si è lamentata perché ha detto a causa dell'energia solare il prezzo dell'energia è sceso e per noi non è più conveniente fare funzionare le nostre centrali centrali a carbone, a gas e a olio. Quindi bisogna ridurre gli incentivi alle energie rinnovabili. Ecco, finché continuiamo a pensare in questo modo e non pensiamo invece a sfruttare in modo più intelligente anche le nuove fonti di energia, continueremo a fare investimenti tramite imprese come l'Enel, controllata dallo Stato italiano, nelle centrali nucleari della Romania, nelle centrali nucleari della Slovacchia e della Russia, nel ammodernamento delle centrali a idrocarburi italiane o nella conversione delle centrali a olio in centrali a carbone. Questo è quello che sta facendo l'Enel. E finché ragioniamo in questo modo, dalla spirale del debito non usciamo. Dobbiamo pensare a modi intelligenti e creativi per uscire da questo tunnel, non solo per quando si parla dello sviluppo, degli incentivi alla crescita. Questa crescita non è qualcosa che viene dal cielo, è la crescita viene anche se si fanno delle scelte intelligenti di politica economica, a partire anche dalle società a controllo statale come l'ENI, come l'Enel, a partire per esempio dagli investimenti nella banda larga di internet, che sono fermi, se ne parla da anni, non si fanno, quindi nelle infrastrutture anche informatiche. Sono queste le cose che dobbiamo fare per rilanciare la crescita. Non è che bisogna fare dei ragionamenti in termini di politica energetica, e l'Italia non ne ha una, perché sta ancora brancolando nel buio. Si era cercato di abbozzarla con questo sconsiderato programma nucleare, che poi per fortuna è stato abbandonato, perché comunque l'Italia non ha bisogno di produrre energia. L'Italia è già in sovrapproduzione, già in sovracapacità di energia con le centrali che ha. Importiamo il 14%. Importiamo il 14% e lo importiamo perché lo importiamo soprattutto di notte dai paesi che producono l'energia con il nucleare, perché costa meno caro. Sì, in esubero, perché costa meno caro. Importiamo il 14%, non più del 14%. E ne importiamo ora di meno, perché grazie al solare non abbiamo più bisogno di importarne una parte. Quindi l'Italia potrebbe anche non importarlo, perché lo produrrebbe tutto con le sue centrali, lo importa perché di notte costa di meno. Questa è una cosa su cui bisogna stare molto attenti. Quindi io penso che su questo devono essere fatte le scelte di politica energetica e di politica economica, e solo così si riuscirà poi a ridurre quel peso che ha il debito sul nostro prodotto interno lordo. Anch'io ho una piccola domanda, una curiosità. Noto spesso in internet annunci di trader per diventare trader online, che mi comunicano poi che si tenta di dire che ci sono facili guadagni, che non serve una preparazione particolare, e quindi mi chiedo chi c'è dietro e a chi gioca, e soprattutto se non c'è mai un momento in cui il settore finanziario si pone, come dire, in un'ottica di autodisciplina. Sì, non diciamo. Parlo altri settori. Sì. Allora, sicuramente queste piattaforme di trading a chi giocano? Giovano soprattutto a quelli che le vendono, a quelli che lo vendono, sera. Perché chi fa, alla fine, quando si apre un conto per una piattaforma di trading si paga, per ogni negoziazione che si paga una commissione, quindi chi offre questa piattaforma naturalmente ottiene dei guadagni, no? Il fatto che poi queste piattaforme vengano promosse dicendo guarda, puoi fare i soldi in modo facile, anche senza essere un esperto, questo sicuramente è una pubblicità ingannevole, perché poi chiaramente neanche gli esperti riescono a sapere dove vanno i titoli. A volte ci azzeccano, a volte prendono delle sonore bastonate. Quindi immaginatevi una persona che durante il giorno fa tutt'altro, che poi la sera torna a casa e si mette a spipolare su Wall Street, per esempio, oppure sulle borse asiatiche. Molti l'hanno fatto, devo dire, conosco, probabilmente conoscete anche voi delle persone nel vostro cerchio, nel nel vostro giro di amici che l'ha fatto, alcuni ce l'hanno fatta e ha guadagnato, altri hanno perso dei soldi o altri sono ancora incastrati in questi investimenti, aspettano che il titolo vada su per poi finalmente vendere. Sicuramente ad alcuni è andata bene, ma è come la lotteria, quindi sicuramente qualcuno vince al Super Enalotto, però la maggior parte dei casi non sei tu, quindi questo. Poi ci sono delle persone che ho conosciuto, lì però andiamo nel patologico, che fanno solo quello e sono persone completamente alienate che stanno tutto il giorno in casa al computer a vedere le curve, perché poi ci sono nel brevissimo periodo ci sono delle tendenze riconoscibili sulle quali uno può puntare le sue fish, no? A volte può andare bene, cioè dice guarda, è arrivata un'ondata rialzista sul titolo, quindi se io lo compro adesso ma poi lo rivendo subito dopo ci guadagno un 1% che moltiplicato per i soldi che ho investito mi dà qualcosa. Il problema, poi alcuni mi hanno detto anche che fanno questo tipo di attività, è che tu come trader in questa piattaforma sei l'ultimo dei cretini, nel senso che tu sei lì collegato a internet con la tua ADSL, wifi, quello che vuoi, però nel frattempo ci sono anche tutte le società finanziarie e di trading, quelli che lo fanno di mestiere, che sono collegate nello stesso momento e loro riescono a passare gli ordini in modo istantaneo e tu magari a causa della tua connessione ci arrivi due secondi dopo, in quei due secondi magari sei andato meno 1%, quindi è veramente un giocattolo che viene dato in mano alle persone in modo indiscriminato per ottenere dei profitti da parte di chi questo giocattolo lo vende, no? Chiaro, sicuramente sentiremo delle persone che dicono guarda, quando è andata bene e poi non l'ho più fatto ho guadagnato 100.000 euro. Può essere vero, per carità, a fronte di chi però, alcuni mi hanno detto che sono comprati anche l'appartamento, bene, sono contento per loro, a fronte di questi ci sono delle persone che in realtà l'appartamento l'hanno perso, quindi bisogna stare molto attenti. Sul fatto dell'autodisciplina, ci sono un sacco di codici di autodisciplina anche nel settore finanziario, poi bisogna vedere come farli rispettare, questo è il grosso problema che abbiamo, perché si dice spesso introduciamo nuove norme, nuove regolamentazioni, in realtà di norme ce ne sono già tante, il problema è che queste norme non vengono rispettate e non ci sono ancora i modi per farle rispettare in modo serio, quindi sul fatto che poi il sistema finanziario si dica da solo oh, sono arrivato un po' a un eccesso, è meglio che mi autoregoli, io non ci credo, perché la finanza, almeno da come l'ho vista in questi anni, mi sembra veramente come un qualcosa di irresistibile che dà la testa alle persone che lavorano in questo settore e non è certo da loro che ci dobbiamo aspettare dei ripensamenti, dei passi indietro o dei richiami alla disciplina o all'autodisciplina. Questo credo che ce lo possiamo veramente scordare. Credo invece l'unico passo possibile sia quello di una maggiore di guadagnare maggior spazio per la politica che non sia più serva e schiava della finanza come è stata fino adesso, ma che comincia a dire ma no, cioè veramente basta, adesso cominciamo a porre dei limiti, ecco. Qualche altra domanda o possiamo lasciare andare in mano? Ah, scusate, per chi lo vuole, io ho dei libri sulla storia di Banca Etica, un libro che ho scritto assieme a Fabio Salviato, che è ex presidente, uno dei fondatori della banca, non è più nuovissimo. È uscito nell'aprile del 2010, però parla della storia anche in modo aneddotico della finanza etica, è scritto in modo divertente, spero, come poi l'ho scritto io. Oggi se volete prenderlo, ve lo do al prezzo simbolico di 5 euro, che la copertina è 15 euro. Quindi se volete faccio anche questa piccola operazione. Poi naturalmente c'è la rivista Valori, che spero alcuni di voi almeno conoscano, è una rivista promossa anche da Banca Etica, il direttore è Andrea Di Stefano, è un mensile sul quale trovate informazioni relativamente alla sostenibilità ambientale e sociale, ai fondi etici e tutti i temi di cui abbiamo parlato questa sera. È disponibile per abbonamento e vi potete abbonare oppure in edicola, ma questo credo solo a Milano, vi potete abbonare su www.valori.it, anche con carta di credito. L'abbonamento costa 35 euro, quindi non è una, è una rivista interessante che parla di questi temi. Grazie.